Backstage Back. Il rock and roll come nessuno ve l'ha mai raccontato. Allora, sono Chuck Bird e questo è Backstage Pass, il permesso per andare a ficcanasare nella vita delle vostre rock and roll star preferite. Questa volta andiamo a casa dei fratelli Davis, in un tempo in cui i loro Kinks non erano per nulla famosi, molto prima che Jimi Hendrix, sì, il dio in persona della chitarra, fosse andato a complimentarsi con Dave Davis per quello che riusciva a fare con la chitarra. Jimi Hendrix ammirava i Kinks non solo per la bontà delle loro canzoni, ma soprattutto per quel suono distorto e selvaggio che caratterizzava le loro prime composizioni. Non so se avete presente quel riff maledetto. Ta-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na. Torniamo nel 1963. Quando Dave era del tutto insoddisfatto del suono che usciva dal suo Green Amp, un amplificatore che si era autocostruito e per questo pericolosissimo. Pensate che un giorno Dave rischiò di rimanerci attaccato per sempre, ma questa è un'altra storia. Torniamo a noi. Dunque Dave stava cercando quel sound giusto, aggressivo e selvatico, ma le regolazioni dell'ampli non bastavano più. Cedendo alla disperazione, forse ricordandosi di un aneddoto simile successo a Johnny Barnett, un grande chitarrista degli anni 50, prese a rasoiate i coni del suo amplificatore. E allora sì, che quella dannata chitarra suonava come voleva lui. Suo fratello Ray Davis, si stava intanto esercitando al piano su un riff jazz e Dave gli andò subito dietro con l'ampli tirato a chiodo. Quel riff, unito a quel suono, crearono la prima canzone heavy metal della storia, You Really Got Me. Backstage Back.